console. La console ospite allo chalet da questo momento. Magic Dream Staff presenta la musica Electro Shock DJ. Le mani a tempo, chalet. Electro Shock DJ. La voce Revolution Demo. Pronti ad esplodere. Showtime! Yeah. question of getting hot, but a matter of how much heat you can take. Liberi di impazzire e battere le mani a tempo per Angelo. terrifying visions of agonizing death and horrible nightmares. Listen if you dare. Alziamo le mani al cielo! Possiamo batterle a tempo! Vogliamo sentire un urlo di tutti i ragazzi dello chalet. Questa è la storia degli angeli che nella notte di Pasqua si riuniscono per far vibrare insieme le loro emozioni. È la storia di un popolo alla ricerca della sua libertà. Le mani battevano a tempo, chalet! Mismo plastico. Queste sono sensazioni infinite. È la tua libertà di essere vivo. È la tua libertà. La tua musica. Electroshock. Ooh. destinazione non ritorno. La musica è notevole. Lima, come il sogno che stai percorrendo in questo momento. Torino, preparati all'urto! Yerba del diablo. ascoltando in questo momento sono in esclusiva Chalet 12 aprile. Magic Dream e Revolution Staff vi presenta Electroshock e Demo. Vogliamo vedervi vicini alla console, pronti a ripartire col sound. Possiamo iniziare a saltellare. Con le mani, con le mani. Manicomio. Io proporrei un vaffanculo a tutti quelli che non ci sono. 1, 2, 3. Questo è il popolo Chalet. E ancora un dito verso il cielo per la concorrenza. Un applauso a noi, viaggiatori d'Italia! Demo Electroshock! Come on! Tutta settimo è presente, sì o no? ragazzi, ci avviciniamo alla console, benediciamo questa notte insieme, angeli della notte. Questo è il canto di gioia e di libertà. Le mani a tempo, dai! Possiamo dire che per questa notte siamo i numeri uno. I am a man who walks on the street. Ondeggiamo con le mani. Walking the dog. I'm screaming. Questo è lo spettacolo della notte di Pasqua. Sometimes I'm a little strange, a little anxious when it's gone. Questo è Pietro Shorten. I have constant fear that something's always here. Siamo pronti a ripartire. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Angeli della notte, fuori la voce! Thank you. tua navicella spaziale sul pianeta musica. Cos'è? Una pausa? Le mani a ritmo! The intention of our minds is powerful. And a curse. Gli sconvolti! favore, dai. Sono le tre e siamo già stanchi. Vogliamo andare a casa, chalet? Alle ore 3 della notte si ritrova in console Electro Shock Demo Magic Dream e Revolution Stuff. Decidono di creare il nuovo manicomio di Torino. Questa notte la leggenda siamo noi. La storia è stata scritta da noi. Let's ritmo. Dove sono le mani, Shale? collisione col pianeta musica. Interferenze nel tuo cervello. Onde elettroniche contro di te. A martellarti è il suo suono. Electroshock! Dammi la tua scarica! Siamo i testimoni di un evento eccezionale. di un qualcosa di subliminale. Siamo i pellegrini di questa musica. Siamo il popolo che vuole fare l'amore con la musica. La nostra eccitazione è solamente il sogno di passarlo in amicizia e in amore. Chalet, questo è il tuo sogno incantato. Perché so che tu un giorno tornerai da me. So che io e te per sempre non ci lasceremo mai. Perché so che un giorno correrai da me e mi dirai io e te non ci lasceremo mai. Chalet! cuore. A un certo punto ho incontrato Electroshock ed Emo. Dai, portatemi fuori! Yeah, cold! Per ripartire, dai, a tempo. Ehi, ehi, ehi, ehi. Saltellare, saltellare, ehi, ehi. Saltellare, saltellare, ehi, ehi. E gli angeli nella notte di Pasqua cantavano. Sui prima da Mauri, benvenuti all'inferno Elettro Show! Sulle mani, a tempo! Hardstyle Generation, Hardstyle Generation, Hardstyle Generation, all'inferno! Grazie, Joshua, il Dalai Lama! pronto a ripartire. Generazione Hard Style. Abbiamo anche la speciale animazione. Elettroshock. Le mani al cielo. Elettroshock e Demo vi salutano così. Vi danno l'appuntamento alla prossima volta. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo sentito anche la voce di una vittima di Elettroshock e Demo. Ricorda cosa ha bevuto. In nomine Patri, e Fili, e Spiritu Sancti. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Questo disco dedica Joshua al Dalai Lama. Questo disco lo dedica Joshua al Dalai Lama. In nomine Sancti, e Fili, e Spiritu Sanctis. Niente eco, perché se gli altri fanno il paradiso, a noi non resta altro che fare l'inferno. Benvenuti all'inferno, nel vostro incubo peggiore. Settimo girone, girone dannati, dannati in eterno. E questa è la Style Generation. Grazie Joshua. Grazie Joshua, grazie Torino. Sulle mani Torino, sulle mani per Joshua Dalai Lama. Mi fa impazzire. Mi fa impazzire il Dalai Lama. Mi fa impazzire Doctor Dom, Doctor Dom, Dom. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenz